tensione evolutiva. Benvenuti a tutti a Tensione Evolutiva 3.0 presso Blu Radio Veneto, la trasmissione che va al nocciolo della soluzione. Un caro saluto da Giovanni Garavello e da Don Daniele Longato. Oggi parliamo di voci di piccola impresa, organizzazione e disorganizzazione con il dottor Andrea Velati. Chi è il dottor Andrea Velati? Il dottor Andrea Velati ha una lunga esperienza come imprenditore e manager in aziende italiane e multinazionali. Ora sviluppa progetti di coaching, marketing strategico e internazionale per le piccole e medie imprese. Ma vado subito a una domanda, Andrea. Qual è il tuo metodo di lavoro per far funzionare una azienda? Buongiorno Giovanni. Buongiorno carissimo. Normalmente il mio metodo di lavoro si sviluppa in tre fasi. La prima fase riguarda il posizionamento competitivo dell'azienda, cioè l'azienda prima di tutto deve comprendere qual è la sua posizione sul mercato e qual è la sua organizzazione. Organizzazione. Dopodiché si passa alla definizione degli obiettivi per raggiungere un vantaggio competitivo nel medio termine. Il terzo punto riguarda l'accompagnamento dell'azienda al raggiungimento di questi obiettivi, vale a dire un supporto all'imprenditore per riuscire a raggiungere questi obiettivi che la portano su un posizionamento competitivo più solido nel medio termine. Quindi in realtà tu aiuti le aziende ad ottenere l'obiettivo tramite dei tuoi meccanismi, dei tuoi sistemi, se ho ben capito. Esattamente, io ho sviluppato un metodo in cui praticamente misuro il posizionamento competitivo attuale e partendo da quello sviluppo un progetto per rafforzare questo posizionamento competitivo nel medio termine. Ecco, vale a dire, allora si parte da una situazione in cui praticamente si comprende molto meglio di come l'azienda è posizionata sul mercato, si comprende molto meglio come l'azienda è posizionata rispetto alle migliori pratiche organizzative e partendo da lì si prepara un progetto di rafforzamento dell'azienda che passa il più delle volte attraverso lo sviluppo internazionale. Praticamente porto le aziende a entrare in una filiera di sviluppo che passa attraverso delle partnership commerciali, finanziarie e strategiche, non solo in Italia ma anche all'estero. Benissimo, e lo tratteremo dopo la musica. A dopo! Clap along. Ben ritrovati a Blu Radio Veneto Tensione Evolutiva 3.0 con Andrea Velati e si parla di voci d'impresa. Vai Don con la seconda domanda. Ciao Andrea, una domanda anche da parte mia. Volevo sapere quali sono le cose che ti appassionano di più nel tuo lavoro. Sì, le cose che mi appassionano di più nel mio lavoro sono certamente la sua varietà, il fatto di trovarsi davanti a delle problematiche complesse e di risolverle o comunque di affrontarle in un'ottica di medio-lungo termine. Un'altra cosa che mi appassiona è vedere le organizzazioni aziendali cambiare, diciamo da sistemi chiusi, aprirsi a quello che è, a quelle che sono le problematiche di oggi, quindi a quello che è il mercato globale. Queste sono le due cose che mi appassionano di più. È chiaro che lavorare con i giovani, lavorare con diciamo delle risorse che vogliono seguirti in questo percorso di cambiamento è una cosa che sicuramente appassiona moltissimo. Quindi ti appassiona, da quello che ho ben capito Andrea, lavorare anche con i ragazzi, quindi sì, impegnativo. Sì, io credo molto nei giovani, purtroppo la nostra società li ha trascurati negli ultimi 20 anni, oggi hanno dei grossi problemi di occupazione, però diciamo i giovani sono la risorsa del futuro ed è sicuramente su questi che bisogna investire, anche nei passaggi generazionali aziendali. Da quello che ho ben capito, quindi ti occupi anche di managerialità, diciamo così, oppure anche di organizzazione complessa, giusto, nelle aziende? Sì, diciamo che una volta stabiliti degli obiettivi di medio termine, quindi definita una strategia aziendale, la cosa più importante per realizzarla sono le risorse che possono essere interne o esterne e un altro punto fondamentale è il riuscire a coordinare queste risorse verso gli obiettivi. È chiaro che questo qualche volta comporta anche dei ritocchi organizzativi che sono assolutamente necessari, perché le competenze e le risorse umane sono la base dello sviluppo aziendale. Infatti, quindi ti occupi anche di organizzazione e una domanda che mi viene così spontanea: come vedi le organizzazioni nostre del Triveneto nelle piccole e medie imprese? Diciamo che in Italia siamo generalmente i nostri imprenditori vengono tutti dal prodotto e quindi praticamente sono molto più orientati allo sviluppo del prodotto, a far evolvere il prodotto secondo le richieste del mercato. Ecco, quindi hanno certe volte una leadership che è ancora troppo padronale, in cui praticamente non esiste la delega o la delega è molto limitata. Io per quello che posso sto cercando di convincere gli imprenditori a investire diciamo sui giovani e soprattutto su una delega di responsabilità che per organizzazioni complesse è assolutamente necessaria. Quindi vedi, diciamo, se abbiamo ben capito, un grosso investimento sul prodotto e meno sull'organizzazione e meno sulle persone? Vuoi dirci questo? No. Diciamo che l'imprenditore veneto è molto orientato al prodotto. Prodotto, sì. Io nelle analisi che faccio, tanto delle uniche aree, le aree verdi, nel senso le aree che ritengo, diciamo, competitivamente a posto, riguardano nella maggior parte dei casi il prodotto, ma un'azienda non è solo il prodotto, è il marketing, è la capacità di speculare nel futuro, è la capacità di investire in organizzazioni moderne e soprattutto per quanto riguarda la leadership, quindi la presa di responsabilità a ogni livello dell'organizzazione aziendale. Benissimo. Io avrei un'altra domanda. Quali sono le più grosse difficoltà che devi affrontare, Andrea, nel tuo lavoro? La più grossa difficoltà, credimi, è una difficoltà mentale. Cioè, oggi siamo in grado di fare qualsiasi cosa, siamo in grado di internazionalizzare le aziende, siamo in grado di portarle su un percorso di sviluppo internazionale a qualsiasi livello. Il problema è che per fare questo bisogna aprire la mente in qualche modo e credere che questa è la strada giusta. non sempre c'è questa predisposizione al cambiamento. Quindi anche tu vedi alle volte una difficoltà, soprattutto inerente, chiamiamola così, all'apertura mentale, se ho ben capito? Quindi sì, vedi proprio questo tipo di difficoltà? La predisposizione ad affrontare, diciamo, a vedere il mondo come l'orto di casa propria, cioè nel senso che a uscire dal mercato interno e dai mercati di riferimento e cercare nuove strategie di prodotto e nuove strategie di partnership a livello internazionale. Se ho ben capito, anche per te è questa la difficoltà più che noti più forte, cioè la difficoltà alla imprenditorialità e al tentativo di usare delle nuove strade? Esattamente. Benissimo. Esattamente. Cosa pensi della competitività del sistema Italia? Purtroppo qui non siamo messi molto bene, nel senso che purtroppo in Italia, soprattutto negli ultimi anni, a partire dal 2000 in poi, ecco, non si è fatto niente per la competitività del sistema e purtroppo dobbiamo pagare uno scotto rispetto ai principali competitor per i costi e la produttività di molti fattori competitivi dove purtroppo siamo molto indietro. Mi riferisco in particolare ai costi dell'energia, del lavoro, al cuneo fiscale, al debito pubblico. Non sto neanche lì a nominare tutte le varie prove. Vengono nominati quotidianamente sui giornali, quindi e in televisione. E infatti. Il problema è volerli affrontare questi problemi. Il problema è proprio volerli affrontare e li affronteremo dopo la musica. A dopo. Sospesa che non voleva scendere, un sorriso a denti stretti, questo prima di te, era neve all'equatore, indeciso su di me, avevo tutto ed ero niente, io prima di te. Aspettava il vento come un sorso d'acqua pura che scorre in gola, tu mi stupisci ancora in tutto quel che fai, mi meravigli ancora quando non eri mia come la prima. Ma non ci credevo più, io prima di te ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare prima di te, c'era un bacio lì a mezz'aria che si era perso. Come il primo giorno a scuola, tu mi stupisci ancora in tutto quel che fai, mi meravigli ancora quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai ma non ci credevo più. Prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria. tu hai raccolto, tu mi stupisci ancora. In tutto quel che fai mi meravigli ancora. Quando non eri mia come la prima ora, tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te. Ben ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0. Stiamo parlando di un argomento interessantissimo col dottor Andrea Velati, manager e formatore aziendale. Stavamo parlando tra di noi di questi argomenti e don Daniele ha subito una domanda da farti. Sì, innanzitutto credo che i giovani in ascolto saranno felici di poter sentire che qualcuno, ecco, pensa ancora a loro. E la domanda che volevo farti, Andrea, apre un po' una finestra sul futuro. Volevo chiederti, infatti, come vedi l'azienda ideale del XXI secolo? L'azienda ideale del XXI secolo è molto diversa da quella che è stata, diciamo, concepita nel secolo scorso. È un'azienda che praticamente ha una filiera di creazione del valore che si basa su partnership internazionali, si basa su percorsi strategici, si basa, diciamo, su nuove competenze, ma soprattutto su uno scambio di valore con altri sistemi economici. Allora, sono un po' più preciso su questo punto. Ecco, ci sono tantissimi paesi emergenti che hanno bisogno della nostra tecnologia e che ci possono dare in cambio una competitività nei costi di produzione e la possibilità di distribuire in aree geografiche che dall'Italia è molto difficile toccare in termini distributivi. Ecco, dobbiamo riuscire a vedere il mondo come se fosse, diciamo, veramente l'orto di casa nostra, per vedere dove c'è il valore e con degli accordi strategici fare in modo che sia il mercato globale che ci porta alla crescita. Perché le aziende, il vecchio modello di faccio il prodotto, lo porto in fiera, cerco di lavorare solo sull'innovazione di prodotto, a mio parere non funziona più negli anni 2000. Infatti, questo lo si vede anche proprio dai risultati. Io ho avuto modo, e ci siamo parlati un giorno in auto di questi argomenti, e ho avuto modo poi di andare a constatare questo, cioè che molte aziende stanno andando bene perché si sono aperte al mercato globale. E non hanno puntato solamente sul prodotto interno. E quindi tu mi stai confermando questo dal tuo punto di vista, se ho ben capito, Andrea. Assolutamente è così. Benissimo. L'apertura verso il mercato esterno è uno dei requisiti fondamentali, oltre ovviamente al recepimento di nuove tecniche organizzative e di nuovi modelli di business che si vanno, diciamo, definendo. Ecco, è il punto fondamentale dello sviluppo degli anni 2000. Sì. Ti faccio una domanda un po' a bruciapelo che mi viene così dalla constatazione quotidiana. Se tu fossi un selettore del personale, sì, e avessi un ragazzo di fronte a te che arriva con un curriculum, sì, cosa gli potresti suggerire per essere accattivante per un'azienda o per un prodotto o per un certo tipo di managerialità? Ecco, oltre che ai requisiti tecnici che ovviamente ci devono essere, certo, ecco, oggi diventa molto importante il carattere, cioè formare il carattere della persona, quindi sostanzialmente fare capire che si è una persona indipendente capace di raggiungere determinati obiettivi. Questo è una cosa fondamentale. Oramai la tecnica non basta più, ma occorre questo carattere di riuscire ad affrontare le situazioni, perché il mondo purtroppo diventa sempre più complesso e quindi il carattere della persona diventa sempre più importante. Sì. Ovviamente ci sono anche le lingue la capacità, certo, direi nel futuro sempre di più, di interfacciarsi con problematiche di tipo sociale e anche, se vogliamo, di pubblica amministrazione, ecco, perché non esiste sistema economico in crescita o comunque che ha delle buone performance senza un'amministrazione pubblica che diciamo ha creato le condizioni per una buona economia. Quindi, se ho ben capito, la crescita, secondo il tuo punto di vista, deve essere una crescita globale, quindi deve esserci una crescita professionale, se ho ben capito, sì. E anche una crescita umana da parte del professionista. La crescita umana, che è stata molto trascurata dalle scuole tecniche fino ad oggi, è assolutamente fondamentale e lo sarà sempre di più in futuro. Infatti, ed è un po' l'argomento che stiamo anche trattando in questa trasmissione, cioè la capacità dell'uomo, delle persone, dei giovani, dei ragazzi di andare al nocciolo della soluzione. E qui mi può venire in aiuto sempre Don Daniele, che ha a che fare con i giovani, con i ragazzi. Tu come li vedi, Don, i ragazzi nel mondo dell'impresa, nel mondo del lavoro? Come li stai vedendo? Temo che, ecco, quello che ci manchi, che manca appunto nel giovane o nella ragazza con la quale a volte entro in dialogo, è proprio la convinzione che sia ancora possibile, che abbia ancora un senso studiare quello che loro vanno a spendere di tempo, di energie, di risorse nell'università, negli studi che fanno, e un po' di speranza nel fatto che tutto questo possa poi avere un risultato positivo, essere e trovare appunto un luogo in cui mettere a frutto tutto quello che è stato il loro impegno. Quindi anche Daniele appunto vede i ragazzi come speranzosi da una parte di poter studiare, di poter entrare nel mondo dell'azienda, però dall'altra anche dubbiosi, perché non sanno se queste loro competenze poi saranno approvate dal mondo del lavoro. Tu, Andrea, cosa ne pensi di questa cosa, velocemente? Diciamo che queste competenze stanno diventando sempre più importanti nell'economia aziendale. E quindi ci sarà sempre di più una selezione del merito e di queste competenze. Ovviamente un'esperienza all'estero aiuta moltissimo in questo percorso. Quindi ci sarà sempre di più una selezione al merito rispetto a quelle che potevano essere magari una volta altri meccanismi di entrata. E tratteremo ancora questo argomento molto interessante dopo la musica. A dopo! Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Tensione evolutiva. Ben ritrovati a Tensione evolutiva 3.0 e si parla di lavoro ed aziende. Don Daniele ha una bellissima cosa da dirci e anche una domanda. Andrea, molti dei nostri ascoltatori sono automobilisti, allora mi piacerebbe usare un'immagine, quella proprio dell'automobile, per chiederti una cosa precisa. Allora, notavo come spesso succeda che la ruota famosa che si buca non è un'esperienza che facciamo tutti e quando poi capita ci troviamo sempre un po' impreparati. Allora la domanda è questa: chi ci può aiutare per riuscire in quei momenti di difficoltà, si parla appunto di crisi, di aprire questo foglio delle istruzioni e risolvere in tempi brevi questo momento di crisi, di difficoltà? Purtroppo ci dobbiamo aiutare noi, nel senso che tutto ovviamente parte dal sistema paese. Se non ci sono le condizioni per fare economia, è chiaro che diventa sempre più difficile fare economia in un paese. Quindi le scelte sono assolutamente politiche, prima di tutto. Ecco, poi è chiaro che da lì si vanno a affrontare tutti i temi, bisogna avere, diciamo, la volontà politica di affrontare una volta per tutti quelli che sono i nodi che ci hanno portato in questa situazione. Ovviamente siamo in ritardo, però siamo ancora in tempo per farlo. Quindi tu ci stai dicendo che sicuramente ciascuno di noi può tirare fuori un po' il meglio che ha? E anche il sistema paese ci dovrebbe un po' più aiutare in questo. Noi siamo al 54esimo posto nella competitività paese a livello mondo. Ecco, esiste un sito che si chiama fare business nei vari paesi, che elenca esattamente tutti quelli che sono i nodi a livello economico di sistema paese nei quali siamo in ritardo. Basterebbe affrontarli uno per uno che hai già un programma che ci porterebbe sicuramente a una situazione migliore. Infatti, quindi diciamo che come Italia, sistema Italia, siamo al 54esimo posto. Sì. Dall'altra parte io quello che vedo anche in giro, così parlando con le persone, alle volte c'è una sorta anche di, passami il termine Andrea, di arrendevolezza rispetto anche a questo. Perché una volta, o anch'io tante volte, no, quando sei in difficoltà cosa fai? Sicuramente chiedi aiuto all'esterno, no? Però in certi momenti di difficoltà sai che devi trovare delle risorse interne, di idee, di proposte, di voglia di esprimerti, di voglia di fare. Sicuramente il sistema paese non sta funzionando, perché questo è evidente, perché siamo passati dall'ottavo decimo posto al 54esimo in pochissimi anni, vuol dire che c'è anche un sistema paese che non funziona. A mio avviso però, poi puoi dirmi anche tu la tua idea, c'è anche una compartecipazione dei singoli. Cosa ne pensi su questo argomento? Sì, assolutamente, assolutamente. Noi purtroppo siamo ancora in una mentalità da posto fisso, da essere assistiti in qualche modo. Cioè, oggi praticamente, se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo, come stiamo facendo con le aziende, rimettersi in discussione ogni giorno e soprattutto formarsi ogni giorno, trovare nuove strade. Ecco, io insieme a Confindustria stiamo portando avanti dei programmi di formazione per disoccupati, per persone che hanno delle difficoltà, affrontando nuovi temi. È chiaro che la formazione personale, ecco, diventa un fattore fondamentale, nel senso che oramai il posto di lavoro assicurato come c'era una volta non esiste più, e quindi bisogna in qualche modo cercarselo, guardare dentro se stessi e capire quali sono le proprie aspettative e quello che veramente si vuole fare. Infatti, sintetizzando quello che stiamo dicendo, la persona potrebbe essere anche più proattiva, quello che stiamo dicendo, cioè la capacità anche di proporsi, la capacità anche di innovare sulle proprie competenze, la capacità di continuare a studiare anche dopo i 30 anni, no? Un'altra grande cosa che si potrebbe andare a toccare. Io ho letto dei dati drammatici, cioè noi siamo all'ultimo posto dopo l'Albania come lettura di libri, leggiamo mezzo libro all'anno. Purtroppo. Quindi è vero che c'è un sistema Italia che non funziona, ma è anche vero che bisogna rimetterci un po' tutti lì a darsi anche da fare su questa cosa, proprio perché, come diceva prima Daniele, un po' c'eravamo seduti, se ho ben capito. Tu cosa ne dici di questo, Andrea? Sì, diciamo, il problema è questo. C'è un altro problema, che il sistema paese, quindi la politica, ha voluto controllare tutto il sistema certo, economico. Cioè oggi praticamente le banche sono in mano al sistema politico, e quindi anche i fondi che vengono dati alle imprese sono controllati dalla politica. Cioè, quindi è un po' un sistema che si è inceppato. Ma secondo te come ci vedi tra un po' di anni? Cioè, quali sono i temi sociali che dovremmo affrontare nel piccolo e nel grande, in sintesi? Ma i temi sono moltissimi. Ecco, quelli più importanti sono sicuramente l'invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione, sì. Ecco, questo a livello mondiale. L'urbanizzazione, tieni conto che ogni settimana 1.200.000 persone si spostano dalle aree rurali a quelle urbane. Sì. Ecco, quindi lì parte, diciamo, un problema di risorse, quindi soprattutto acqua, cibo ed energia. Quindi incompatibilità con quello che è il sistema dell'ambiente. Quindi temi molto molto grandi che avremo modo anche di sviscerare in altre trasmissioni, e sicuramente avremo modo di risentirci. Da parte mia, intanto, caro Andrea, ti saluto e grazie. Un saluto anche da parte mia, Andrea. Grazie per questa intervista. Salutiamo il nostro pubblico e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Giovanni Garavello e da Don Daniele Longato. Tensione evolutiva, tensione evolutiva, tensione evolutiva.